Ferry, una fiaba nordica di Jean-François Chabat. Quando nacque Ferry non era come tutti gli altri lupacchiotti, una piccola palla di pelo appiccicosa che qualche leccata della mamma avrebbe ripulito. Non appena ebbe spalancato gli occhi e aperto la bocca per sbadigliare, mostrò subito un aspetto sanguinario, spaventoso e crudele. Certo, si trattava di qualità indubbie per un lupo, ma il troppo stroppia. Gli stessi fratelli ne erano terrorizzati. Ogni volta che il piccolo Ferry avvicinava il muso per succhiare il latte, sua madre non riusciva a trattenere un brivido. Era abituata con i cuccioli, ne aveva avuti altri, ma questo mostrava un'aria così feroce. Anche i fratelli e le sorelle avevano paura di lui. Ferry non faceva nulla di particolarmente terribile, non era più cattivo degli altri, ma bastava guardarlo e ti si drizzavano i peli. Ferry crebbe, divenne un lupo immenso e il suo aspetto teneva lontani anche i più temerari. Aveva il manto rossastro e il torso potente spuntava da sotto le fauci, dotate di zanne enormi. Sul dorso gli crescevano ruvide setole che formavano una specie di criniera. Il particolare più agghiacciante però erano gli occhi. Aveva uno sguardo spaventoso, nessuno riusciva a sostenerlo. Un baluginio scarlatto gli brillava nelle pupille. I lupi, lo sanno tutti, vivono in branco. La presenza di Ferry, tuttavia, metteva i nervi degli altri a dura prova. Si voltavano appena sentivano un rumore e gli veniva spontaneo un guaito di orrore di fronte agli occhi fiammeggianti del grande lupo rosso. Così accadde che, a forza di sembrare malvagio, suo malgrado, e di terrorizzare tutti semplicemente col suo aspetto, Ferry finì per diventare crudele davvero. Chi ha un carattere fragile cresce immaginando di essere come lo vedono gli altri. I giudizi plasmano. E poiché Ferry aveva quell'aria orribile che faceva quasi svenire anche i lupi più agguerriti, finì per commettere azioni che corrispondevano a quell'immagine e che riteneva adatte all'opinione che gli altri avevano di lui. Morse uno dei suoi fratelli, lasciandogli una profonda ferita sul fianco. Poi attaccò il capobranco e lo avrebbe fatto a pezzi se tutti gli altri lupi non si fossero messi in mezzo per proteggerlo. Fu cacciato. In qualche altro branco forse sarebbe diventato il capo, dal momento che era il più forte. I lupi del suo clan però non erano stupidi. Sapevano che un sovrano era necessario, ma anche che non era ragionevole scegliere chi avrebbe fatto regnare il terrore non solo tra le altre specie, ma anche all'interno del proprio dominio. Non basta essere forti, bisogna anche essere amati. E Ferry non lo era. Il grande lupo rosso errò tra le immense foreste di betulle, tra le montagne e le pianure d'erba bassa, dove a seconda delle stagioni soffiava un vento violento, caldo e secco, oppure ghiacciato. Se Ferry spaventava quelli della sua specie, è facile immaginare la paura di conigli, merli o marmotte. Nessun animale sfuggiva al terrore. Più era temuto, più la sua crudeltà aumentava. La solitudine non fece che aggravare la situazione e il lupo rosso divenne una leggenda. Era ormai Ferry il feroce, colui che metteva in fuga persino gli orsi e di cui neanche si osava pronunciare il nome. Colui che ispirava un tale terrore che i rami bassi degli alberi si scostavano da soli al suo passaggio per non essere sfiorati dal manto del grande lupo rosso, oppure, ancor peggio, graffiati dalle sue zampe o morsi dai suoi denti acuminati. Colui che faceva reclinare i fiori e piegare l'erba dei campi. Le voci della natura lo accompagnavano con un soffio costante che avvisava: feroce, Feroce! Ecco arrivare il feroce lupo rosso! Ferri credeva di essere fiero di questo regno del terrore, ma mentiva a se stesso. Quando una situazione sfugge alla nostra comprensione, si sa, fingiamo di esserne gli artefici. E il lupo rosso gonfiava il petto d'orgoglio. Quale altro essere su questa terra non si sarebbe sottomesso ai suoi occhi di rubino e alle sue zanne aguzze? Incontrò la bambina nella radura d'un'oscura foresta di abeti. Era primavera. La bimba, illuminata da un raggio di sole, raccoglieva un giglio da appuntare tra i capelli color miele. Era di spalle e non l'aveva visto ancora. Ferria emise allora un grugnito sinistro, pronto ad assaporare il terrore che avrebbe suscitato in quella piccola creatura umana. La bambina si voltò. Il grande lupo le offrì il suo sorriso più spaventoso, credendo di udire il grido di terrore. Ma lei si limitò ad alzare un sopracciglio. Si mise senza fretta il bel fiore nei capelli e poi si avvicinò a Ferri e con sua immensa sorpresa tese la mano per sollevargli la palpebra. Mormorò con voce tenue ma sicura. Sì, vedo questi occhi rossi. È allergico al polline? No, immagino che non fumi. Allora, caro mio signore, lei ha una bella congiuntivite. Ferri il feroce fece un passo indietro. Erano anni che nessuno lo toccava. Oh, ma che timidone! Disse la bambina. Non faccia il fifone. Guardi, non gliene faccio una colpa. Anche a me è stato detto mille volte di non parlare agli sconosciuti. I suoi genitori sono severi? Il lupo rosso avrebbe voluto di nuovo ringhiare, ma era così indignato che si strozzò e tossì. Ecco, esclamò la bambina. Quando le dicevo che stava covando qualcosa, mi faccia sentire i polmoni. Ferri, attonito, tentò di battere in ritirata. Le sue zampe anteriori urtarono contro un tronco costellato di funghi azzurri. La bambina lo raggiunse in un attimo. Gli passò le mani intorno al collo con fermezza. Su, non deve lasciarsi influenzare da tutte quelle storie sul mistero femminile. Certo, siamo belle, siamo intelligenti, è vero. Anche voi però avete qualcosa di buono. Forse bisogna cercarlo un po' più a lungo. Si racconta che dietro la curva di un sentiero di montagna, in fondo a un burrone o in un bosco, possa talvolta capitare di scorgere una strana coppia, una ragazza e un gigantesco lupo rosso, ormai vecchio e dal pelo ingrigito. Camminano affiancati col passo di chi ha fatto tanta strada insieme. Talvolta la ragazza si appoggia al collo del lupo, a volte è il lupo che preme contro le gambe sottili della donna. Vivono in armonia. Eppure, la gente che oggi prende tutto seriamente dice che non è proprio possibile. I lupi, come è noto, sono animali tanto feroci.